Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un check-up oggi, check-up in piena regola sullo stato di salute economico-finanziario del calcio italiano, perché insomma, basta aver letto i giornali di questi giorni, anche solo scorsi velocemente, per capire che è opportuno. Il primario, immediatamente convocato al capezzale, non poteva essere che Marco Bellinazzo, del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno e grazie per il primario, ma troppa stima. Troppo buono. Leggo due titoli di questi giorni. Uno del Sole 24 Ore, che dice calcio debiti a quota 2,7 miliardi, con un valore patrimoniale di club stimato in 3,7 miliardi. Ne leggo uno della Gazzetta dello Sport, che dice: dagli stadi al marketing, così l'Italia si è fermata. Da uno studio della FIGC, nel 2000 la Serie A incassava quanto la Premier League, quindi c'è un pubblico come minimo da incentivare. Allora, io direi partire con metodo e di viaggiare su due grandi domande di fondo, che sono: uno, per l'appunto, come sta il calcio italiano? Più che un primario non saprei a chi rivolgerla, e la seconda, che verrà poi, quali sono le cure possibili. Beh, innanzitutto proviamo a dire chi ha fatto questa diagnosi, cioè sì, il centro studi della FIGC, la PricewaterhouseCoopers e l'AREL, che si sono presi questo compito di valutare, andare a guardare all'interno dei bilanci della Serie A, della Serie B e della Lega Pro, quindi del calcio professionistico italiano degli ultimi tre anni, quello che è lo stato dell'arte e soprattutto quelle che sono le prospettive di sviluppo e di rilancio del calcio italiano. Sì. Questo rapporto, tra l'altro, diventerà annuale, diventerà un appuntamento fisso, e quindi per chi come me ha un po' questa mania dei numeri, insomma, e delle valutazioni, insomma, è soltanto un regalo e ci facilita un po' nel lavoro. Sono tante gli aspetti che in qualche modo però confermano, insomma, tutto quello che noi abbiamo detto lungo questa stagione. E partiamo dai dati strutturali, dai grandi numeri. Daremo un po' di numeri, un po' perché comincia a far caldo, ma perché sì, mai come in questo caso servono. Però con l'avvertenza per chi ci sta ascoltando, sì, della possibilità di intervenire come sempre all'800 24 00 24. La tematica è questa. Poi, se volete sapere le ultime su AMSIC, per carità, può pure darsi che Marco Bellinazzo, in quanto tradito dall'accento, no, sulla sua passione calcistica, ne sappia più di quanto per esempio non ne sappia io. Però diciamo che in linea di massima sarebbero gradite domande pertinenti al tema. Dicevi, cominciamo strutturalmente a vedere come siamo combinati. Sì, per chi ha pazienza, poi alla fine arriveremo anche a individuare forse delle linee di guida o di possibili cure, sì, ci sarà anche una prospettiva positiva, terapeutica. Ma in fondo, per il momento, arriviamo alla diagnosi della malattia. Il calcio italiano, il calcio professionistico, ovviamente queste sono cifre che riguardano, ripeto, Serie A, Serie B e C, ma è chiaro che l'80%, il 90% riguarda la Serie A, insomma, sì, cioè sono 120 quanti i club presi in esame? Sono 133 i club professionistiche, ma è chiaro che il fatturato o il valore patrimoniale o i debiti sono prevalentemente della Serie, certo, A. Dunque, nell'ultima stagione presa in considerazione, quindi il 2009-2010, il valore patrimoniale del calcio italiano è arrivato a 3,7 miliardi, i debiti a 2,7 miliardi, il fatturato, quindi quello che è il frutto della gestione, nel complesso a 2,5 miliardi, e per la prima volta la Serie A ha superato quota 2 miliardi, ma la gestione ha prodotto un rosso di 350 milioni. Complessivi. Ora, se noi andiamo a guardare le ultime tre stagioni, quindi 2008, 2009 e 2010, il risultato netto di tutto il calcio aggregato è sempre negativo, 261 milioni, 340 e 340. Quindi il calcio opera sostanzialmente strutturalmente in perdita, ma questo in qualche modo si sapeva già. Sì. Quello che proviamo ora a dire perché è così, e appunto come si può rimediare. Secondo me è interessante magari proprio partire da quelli che sono i valori positivi, cioè gli incassi. Come si sa, il calcio italiano dipende ancora troppo po' dai diritti televisivi. Qui magari poi insomma si può aprire una parentesi e dire che la querela è ancora tale, per cui è stato appena rinviato, tra l'altro, cioè è stata dichiarata aperta l'assemblea che tornerà tornerà in seduta il prossimo 6 giugno. Sì, di fatto appena... non si è mai rimasta formalmente aperta, si è creata una sorta di mini comitato d'emergenza tra i big e le squadre che hanno minor fatturato, e come abbiamo raccontato non solo c'è ora il problema di distribuire i 200 milioni che sono rimasti dell'ultimo contratto, ma anche quello di stabilire poi le linee guida per il prossimo triennio, perché questi alti ricavi legati ai diritti televisivi, che nel 2010 per la prima volta hanno superato quota 1 miliardo, e siamo appunto in epoca ora di vendita collettiva, rappresentano sostanzialmente oltre il 42% dei ricavi globali. Questo dato del 42% è un po' sfalsato dal campione come dire globale, no? In quanto consideriamo anche Serie B e Lega Pro, sì, che non hanno sostanzialmente questo tipo di introiti. Poi vedremo il rapporto con le altre leghe, faremo anche, che secondo me è la cosa più interessante, il rapporto con le altre leghe, perché se guardiamo la sola Serie A l'incidenza dei diritti radiotelevisivi è del 65% al netto delle plusvalenze. Per esempio la Premier League, poi vedremo più nel dettaglio, è solo al 50%, dipende solo al 50%. Questo significa che se un giorno Sky o Mediaset Premium dovessero chiudere i rubinetti, sarebbe un vero dramma. Sarebbe un disastro per tutto il calcio europeo, ma da noi lo sarebbe in maniera particolare. Il problema, per esempio, scusami Gigi, forse certo, siamo, è che riguarda gli stadi, ora ti dico perché, insomma siamo per andare in pubblicità, credo. È che negli ultimi 13 anni l'incremento dei ricavi da stadio è stato di appena lo 0,3%. E dato che i prezzi non sono calati, vuol dire evidentemente, questo è un numero che riesco a capire anch'io, no, significa che il pubblico allo stadio è calato. Probabilmente, è così, è strutturalmente calato. È chiaro che poi con tutta la disputa politica che si è innescata sulla legge relativa agli stadi e la mancanza di stadi di proprietà a parte la Juve, si crea un cortocircuito per cui si dipende eccessivamente dai diritti TV, e quelle storie che abbiamo raccontato anche relative ai tifosi che vengono spiazzati dai cambiamenti di orari, certo, per garantire diciamo visibilità televisiva ai match, sono spiegabili alla luce di questo dato. Anche questa infatti dovrebbe essere una rivoluzione strutturale di approccio e di fruizione da parte del pubblico del fenomeno calcio, dello spettacolo calcio, perché ormai di questo spettacolo poi con le virgolette, ma di questo si tratta. Allora, suggerirei di interpolare la tua analisi, l'esame della prognosi e poi le tappe successive con qualche intervento. Armando da Pescara domanda per esempio all'ottimo Bellinazzo se è in grado di dare informazioni su esempi virtuosi del nostro calcio professionistico, ammesso che ce ne siano. Beh, abbiamo parlato spesso del Napoli, che ha bilanci in attivo da 4 anni e un costo del personale, un costo del lavoro nettamente inferiore più basso, al 40%, certo, rispetto al fatturato, equilibrio destinato a rompersi se De Laurentiis dà troppo retta ai tifosi, ma ci sono comunque esigenze di rafforzamento. E un altro esempio virtuoso è l'Udinese, che punta molto sui vivai. Sì. Può essere anche considerato, nonostante le difficoltà in cui versa, un esempio virtuoso la Juventus, in quanto appunto ha costruito uno stadio ed avrà ricavi, vedremo quanti, ma comunque ricavi aggiuntivi a quelli che attualmente rappresentano, insomma, gli incassi da stadio, sia pure bassi, della stessa Juventus. Allora, 2 ascoltatori già prenotati. Uno direi per il momento, perché vedo la sintesi sull'intervento che Franco Piantanide mi ha fatto nel suo display, è stadi. Quindi vediamo magari di introdurre, grazie a questo ascoltatore, questo concetto, e poi invece torniamo all'analisi vera e propria. Simone dalla Spezia, dica. Buongiorno Garantini, è un piacere parlare con lei. Senta, in argomento stadi, pare che lo stadio di proprietà di una società possa essere, non dico la soluzione, ma un grosso aiuto a risolvere i problemi. Ma se gli stadi sono vuoti, indipendentemente dalla proprietà, rimangono stadi vuoti, in che modo possono aiutare una società a risolvere i propri problemi? La ringrazio, ascolto per radio. È una buona domanda, infatti lei dice, prima ancora della, è nato prima l'uovo o la gallina, la sua domanda più o meno è questa. Beh, lo stadio di proprietà in teoria dovrebbe essere innanzitutto uno stadio più sicuro, sì. In secondo luogo uno stadio più accogliente con più servizi, in terzo luogo uno stadio che non vive soltanto nel giorno dell'evento sportivo, ma dovrebbe essere, come dire, circondato da una serie di infrastrutture tali da garantire un ricavo costante da parte della società. Il problema è che chi, come dire, sta governando attualmente il processo di attuazione di questa legge, che appunto è impantanata e quindi non è un processo di attuazione, semmai di rallentamento, sta cercando in qualche modo di aumentare troppo questi ricavi paralleli, cioè non si può chiedere di ottenere un permesso facilitato per costruire uno stadio e poi costruire attorno dei centri residenziali, cioè fare tutt'altro. Lo stadio deve essere l'oggetto primario della concessione e non in qualche modo la scusa. Certo. Torniamo a questi conti del calcio italiano. Tu ci hai già detto da dove arrivano i ricavi, a grandi linee, cioè al 43% dei diritti televisivi. Sì, quelli generali, per la, arriviamo al 65%. A 65%. Una percentuale troppo bassa, che è intorno all'11%, invece avviene dallo stadio, appunto. Quello di cui stiamo parlando. Per esempio, i ricavi di abbonamenti nella stagione, sempre 2010, sono stati di 84 milioni. I ricavi da biglietti pari a 143 milioni, 94 per le gare da campionato, 29 per quanto riguarda le coppe europee, circa 20 milioni per quanto riguarda Coppa Italia e amichevoli, così abbiamo fatto anche un focus. In ogni caso è una quota su un fatturato di 2 miliardi assolutamente bassa, che va incrementata, così come va incrementata la voce legata al merchandising, agli sponsor, alla pubblicità, ai diritti d'immagine. Anche qui siamo intorno al 15%, e quando poi più tardi abbiamo tempo, insomma, faremo il raffronto con le altre leghe europee, capirai perché è una voce troppo compressa perché si possa sperare in un miglioramento immediato. È chiaro che valorizzare il marchio significa avere campioni, vincere e fare un lavoro anche di internazionalizzazione, però se mai si comincia, mai si arriverà ad avere un marchio, certo, come per esempio quello del Bayern Monaco, che garantisce alla squadra tedesca, insomma, un primato in Europa veramente invidiabile. Mentre invece, se parliamo di costi, l'hai già fatto indirettamente citando il Napoli come modello virtuoso che di stipendi paga o pagava il 40% scarso del fatturato, mi pare che sia un problema storico ormai per noi, che l'incidenza eccessiva, proprio completamente fuori controllo, è quella degli stipendi. Beh, se noi consideriamo appunto la voce costo del lavoro, arriviamo a una cifra esorbitante, parliamo di 1,5 miliardi per tutto il sistema calcio professionistico italiano. Ma magari per quelli un pochino più agile come me, sarebbero 3.000 miliardi di lire, per capirci. No? E poi c'è una voce assolutamente ormai fuori controllo, che è quella che realmente pesa e che va spiegata, quella degli ammortamenti, delle svalutazioni, che arriva a mezzo miliardo di euro, sono 1.000 miliardi delle vecchie lire. In sostanza, gli ammortamenti sono è una voce di bilancio nella quale si scaricano i costi degli acquisti dei calciatori. Sì. Per cui se pago un giocatore 20, in base alla durata del contratto, carico questo costo, per esempio se è un contratto di 4 anni, su 4 bilanci. Stagioni, ecco. Sì. Evidentemente questa voce è cresciuta troppo, perché si è lasciato troppo andare, correre il calciomercato alla ricerca di plusvalenze, ma che spesso hanno portato a minusvalenze. Fatto sta che pesa appunto per 500 milioni, abbiamo detto 0,5 miliardi di euro, 436 milioni sono in Serie A e rappresentano il 20% del totale dei costi dell'interi che sopportano i club della massima serie, e sono cresciuti del 20% nel 2010 rispetto all'anno precedente. Questo che vuol dire che o si instaura una politica più attenta nell'acquisto dei calciatori e si comprano calciatori giovani anziché campioni affermati, e quindi si punta di più sul futuro, oppure i bilanci si caricheranno di questi costi, che indubbiamente poi peseranno, anche perché poi non sempre si riesce a rivendere quei calciatori al valore come dire, patrimoniale che si è iscritto invece nell'attivo, certo, e certo, che rappresenta l'unica voce patrimoniale di solidità delle squadre, no? In mancanza di stadi, l'unico patrimonio che hanno le squadre sono i calciatori, che vengono indicati nel loro valore sulla base di una, appunto, di quello che è stato il prezzo di acquisto. Ma conosciamo, per esempio, ricordiamo la vicenda Ibrahimovic al Barcellona, comprato per 70 milioni e rivenduto forse per 25, ma quelli sono i dati comunicati, e evidentemente il valore troppo volatile per dare solidità a un club, e in mancanza di stadi è un po' un cane che si morde la coda, però le squadre non hanno un altro valore da porre come fondamento del proprio sviluppo. Uno spiritoso triestino che si firma Max, che saluta anche il dottore primario, dice che a Trieste, ricordando la vicenda della tribuna pittata, no? Pittata di gente, si è confuso il virtuoso col virtuale, ma la retrocessione invece è verissima e purtroppo è toccata la triestina. Avevo letto che c'era un ascoltatore milanese, è caduta la linea, allora lo recuperiamo e arriviamo a che capitolo? Per esempio, la voce dei debiti, questo è un altro elemento dolente. La Serie A ormai ha raggiunto debiti per 2,3 miliardi, la Serie B siamo a 350, insomma la Lega Pro molto meno, ma chiaramente pesano di più in rapporto a quello che è il valore patrimoniale dei club. Pensa che molti club della Lega Pro prima divisione sono arrivati a perdere tra il 2009 e il 2010 per quanto riguarda quello che è il patrimonio netto, sostanzialmente quasi tutto il loro valore, quindi per esempio da un patrimonio netto di 350.000 euro, in questi casi parliamo di cifre, sì, arrivate a un valore, un patrimonio netto medio di appena 50.000 euro nei casi più virtuosi. Ma... e tutto questo è il riflesso della crisi che abbiamo raccontato, dell'ipotesi di riforma, della necessità di ridurre addirittura in un triennio a 60 squadre rispetto alle 85 che ci sono, e dimostra come anche il calcio minore non sia messo tanto bene in Italia. No, certo, e qui poi sì entrerebbe un'altra di quelle parentesi che ci porterebbero molto lontano, servirebbe invocare la tangenziale per riflettere sul fatto che 132 club professionistici, insomma nessun sistema calcio oggi li può più reggere, tantomeno il sistema. In un sistema in cui evidentemente la crisi economica ha falcidiato tutte quelle realtà più, certo, più deboli, e al nulla valgono poi criteri economici più alti ed elevati per l'iscrizione ai campionati, perché magari si riesce in qualche modo a iscriverci, ma poi la gestione costa, e se si vuole superare diciamo il livello di partenza, quindi migliorarsi, bisogna ingaggiare calciatori con stipendi più alti, e si finisce insomma a retrocedere non solo sportivamente ma anche economicamente. Con questi debiti e con la volatilità dei capitali non capisco come possano esserci società quotate in borsa. Beh, una bella domanda. Alberto d'Arezzo, e ho l'impressione che sia una bella domanda che abbia un fondamento. Anche che abbia un fondamento, e non a caso quella moda che c'era a fine anni 90, inizio 2000, di quotare le società in borsa si è fermata. Poi Juventus, Lazio e Roma, che hanno fatto queste scelte per motivi diversi, e infatti i titoli di queste società si sono costantemente deprezzati, forse non sono stati quotati a un livello troppo alto. Fatto sta che insomma ormai chi ce li ha se li tiene, anche perché per esempio per la Juve ci sono, come dire, prospettive di rilancio, forse un po' meno per Roma e Lazio, insomma la società proprietaria della Roma, la situazione proprietaria è ancora un po' complessa, vedremo, insomma i proclami sono stati fatti, gli impegni sono stati presi, gli attori sembrano solidi, e vediamo quello che succede, insomma. Certo. Si era parlato di Rizzoli come arbitro della finale di Coppa Campioni, invece non sarà l'arbitro italiano a dirigerla, bensì l'ungherese Kassai. Come è comunicato stamane all'UEFA, Kassai vanta 60 partite di UEFA, cioè di coppe, nel suo curriculum. Lo scorso anno aveva diretto tra l'altro la semifinale dei mondiali sudafricani, Spagna-Germania, diretta tra l'altro molto bene. Torniamo in tema con un intervento da Milano. Achille, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione innanzitutto, e concordo pienamente sia con lei che con il primario, ovvero secondo me l'azienda calcio è un'azienda che più passa il tempo più il disavanzo andrà a aumentare, perché comunque si lavora sostenendo oneri europei, ma ci sono delle entrate all'italiana, un po' come se si spendesse in euro e si guadagnasse in lire. E c'è una serie di, le società a mio avviso non si possono reggere prevalentemente su diritti televisivi, ma dovrebbero veramente investire un po' modelli quali Barcellona, tanto per fare degli esempi semplici, su quello che sono i stadi, l'accessibilità snella, la confortevolezza dello stadio, il merchandising, una fidelizzazione e quant'altro. E tutto questo aiuterebbe gli introiti per le squadre. E concordo anche le quotazioni in borsa, il non senso della quotazione in borsa della squadra di calcio, per come definiva il suo ospite, in realtà il patrimonio di una squadra è un patrimonio volatile dettato dal parco giocatori e quindi non ha senso quotarsi in borsa. Infatti quotarsi in borsa è come essere così un supporter che decide di regalare dei soldi alla propria squadra sapendo in partenza che rivederli sarà aleatorio. Achille, grazie. Sì, forse si è confuso, come dire, l'acquisto delle azioni con l'azionariato popolare, che sono due cose diverse, profondamente diverse. Abbiamo fatto, Gigi, un quadro come dire patrimoniale ed economico molto chiaro. Il patrimonio netto di tutto il calcio italiano era raggiunto nel 2010 la semplice quota di 406 milioni, era 460 milioni pochi nel 2008, quindi insomma si sta riducendo questa quota. Abbiamo visto, si opera in perdita strutturale, ci sono debiti per 2,8 miliardi, è un quadro effettivamente poco incoraggiante, che diventa ancora più triste se facciamo il confronto con il calcio europeo e con le principali leghe che ci sono in Europa. Partiamo dai ricavi, cioè dal fatturato. La capolista è la Premier League, che ha nel 2010 fatturato circa 2,5 miliardi. Germania, la Bundesliga, ha fatturato 1,5 miliardi, ci ha superato, siamo di pochi milioni perché non ci siamo fermati a 1,5 miliardi, in particolare 1.536 milioni, sì. Poco sotto è la Spagna con 1.500 milioni, quindi 1,5 miliardi, e la Francia è 1 miliardo più o meno. Quindi diciamo, innanzitutto in termini assoluti capisci quanto vale la Premier League in raffronto alla Serie A. Su quella ripartizione, quindi collegandomi a quello che diceva l'ultimo ascoltatore, abbiamo detto i diritti TV rappresentano in Italia il 65% degli introiti, in Inghilterra il 50%, in Germania il 32%, in Spagna il 38%, in Francia il 60%, ecco, solo la Francia forse si avvicina a noi. Gli incassi relativi allo stadio, abbiamo detto, in Italia il 15%, in Inghilterra il 25%, in Germania il 23%, in Spagna il 32%, in Francia il 10%. Quindi noi ci stiamo, come dire, assimilando all'esempio peggiore che si può essere in Europa. Al top siamo alla metà, anzi forse qualcosina meno alla metà. Parliamo poi di merchandising sponsor. La Germania qui la fa da padrona, perché addirittura il 45% degli introiti della Germania, di quel 1,5 miliardi, sono recuperati e ottenuti grazie a sponsor e merchandising. In Inghilterra siamo al 25%, noi al 20%, la Spagna al 30% e la Francia al 30%, quindi siamo ultimi da questo punto di vista. Più nel dettaglio, la media spettatori è di 42.500 in Germania, 34.000 in Inghilterra, 28.000 in Spagna, noi siamo fermi più o meno a 25.000, in Francia siamo a 20.000. C'è stato un recupero rispetto al gradino più basso che era addirittura sceso nel 2006 con la Juventus, il Napoli, il Genoa in B, era sceso addirittura sotto i 20.000. Il recupero è stato buono, ma certamente non è sufficiente per competere con quelli europei. Però appunto il discorso che si faceva prima, si possono anche avere stadi di proprietà e belli, ma se poi non li si riempie non si ottiene nulla. Il tasso di riempimento dell'Italia è 60%, 61% di stadi di Serie A, in Inghilterra siamo al 92%, in Germania all'88%. In Inghilterra ci sono 20 stadi di proprietà, in Spagna 9, in Germania 1, in Francia 1, l'Italia ne avrà uno, Francia 0, insomma in Italia 1 da agosto. Ritorna questo elemento. Tra i top club, tra i primi 10, Diciamo che Real Madrid ha un fatturato di 438 milioni, il Barcellona 400, il Manchester 350, non a caso le tre semifinaliste della Champions League, tranne poi l'eccezione dello Schalke 04. Diciamo che nessuna società francese è tra le prime 10 e quindi chiaramente le squadre italiane, cioè Milan, Inter, Juventus, che accedono alla top 10 fra i club più ricchi d'Europa, comunque quelli capaci di generare un fatturato maggiore, si attestano intorno ai 200, 220, 230 milioni, quindi quasi la metà di quello dei top club europei. Molto lontani dai e questo fa capire perché abbiamo perso un posto in Champions League e perché molto difficilmente, a parte l'eccezione dell'Inter l'anno scorso, insomma, si riesce a ottenere vittorie in campo europeo. Parlo di Champions e di Europa League, dove sappiamo che insomma ormai giusto per partecipare. Certo, ma è giusto sommare questa analisi economico-finanziaria a quelle invece tecniche che si fanno in altri momenti, che poi ovviamente parlando di pallone sono le prevalenti, ma che arrivi da qui una conferma mi pare molto significativo. Agostino, in linea da Roma, buongiorno. Buongiorno alla coppiata vincente. Sì. Allora, domenica ho letto l'articolo sul Sole 24 Ore di Maria Luisa Colledani, che è stato uno squarcio del buio, in cui dice che nella Premier League soltanto il 40% si può vedere tranquillamente sul divano di casa. Allora non è che noi viviamo al di sopra delle nostre possibilità col 100%? Anche questa è una domanda. Beh, diciamo che l'impatto dei diritti TV e la gestione poi delle partite trasmesse cambia un po' da torneo a torneo. Io ritengo innanzitutto che si debba dipendere in generale di meno dai diritti TV, questo è chiaro, e soprattutto se si dipende dai diritti TV o se si ritiene che i diritti TV debbano essere una voce importante del fatturato, dovrebbe esserci un bilanciamento tra i diritti TV venduti per esempio in patria e quelli venduti all'estero. Questo ovviamente attiene all'appeal poi del campionato, perché sì, sempre continuando nel raffronto che abbiamo iniziato, l'Italia ha sostanzialmente circa 1 miliardo di introiti all'anno da diritti TV, e in questo, mentre l'Inghilterra arriva a 1,2 miliardi. Però diciamo, per quanto riguarda il mercato interno, l'Italia è quello che produce di più, cioè si arriva a 1 miliardo contro i 900 milioni dell'Inghilterra e gli 800 in casalo dalla Liga. Questo che vuol dire? Che mentre l'Italia praticamente ottiene diritti TV il 90% dalla vendita interna e soltanto il 10% quindi dalla vendita estera, l'Inghilterra ottiene il 66% dalla vendita interna e il 34% dalla vendita all'estero. Perché è un prodotto più evidentemente sul piano internazionale. Cioè, la Spagna per esempio l'84% interno, il 16% esterno, però la Spagna non è un esempio virtuoso, perché sostanzialmente i 570 milioni che incassa la Spagna dai diritti TV per il 60% finiscono alle solite, la solite due, cioè Real e Barcellona, e le altre invece devono accontentarsi delle briciole. La Bundesliga guadagna circa 500 milioni dai diritti TV, la Francia 624 milioni, quindi l'esempio virtuoso di cui tanto si parla, la Germania, l'abbiamo raccontato più volte qui, ha un incasso soltanto di 500 milioni dai diritti TV e il 13% dall'estero, 87% dal mercato interno. Quindi anche qui, diciamo, però questa fetta di diritti dal mercato estero venduta dalla Bundesliga sta crescendo, e vedrà che crescerà ancora di più, perché la PIL di quel campionato, i giocatori, gli atleti di rango che iniziano a giocarci è notevole. Insomma, è un fenomeno in crescita e sta crescendo. Non c'è alcun dubbio. Eugenio, Verona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io ho sentito la vostra trasmissione e avete fatto un quadro quantomeno disastrato, in sostanza, del calcio italiano. Mi pongo a questo punto due domande. A, come mai società non falliscono, soprattutto quelle di A, che avete detto indebitate fino all'inverosimile? E seconda cosa, ma sti presidenti che se le tengono a fare ste robe che costano e basta, a quanto mi dite voi? Ma è tutto vero o sotto ci sono comunque dei guadagni non chiari, non trasparenti? Questo volevo chiedere. Primario. Allora, c'è da dire che finora queste gestioni così negative venivano ripianate poi anno dopo anno dal patron di turno che staccava l'assegno. L'attenzione che c'è su questi temi adesso nasce dal fatto che con il fair play finanziario, quindi a partire dal prossimo mese di luglio, questa tecnica non sarà più possibile, se non con alcune eccezioni, insomma, ma questo è un altro discorso, poi l'abbiamo fatto, insomma, e lo rifaremo magari nelle prossime settimane. È chiaro che il dividendo del calcio in Italia in particolare non è mai stato puramente economico. Noi non possiamo arrivare ad affermare che ci sono entrate in nero da parte, insomma, che e guadagni non dichiarati, sarebbe impossibile, insomma, non abbiamo le prove, altrimenti lo diremmo, ma non è così. E che diciamo che finora il giocattolo calcio è stato considerato appunto come un divertissement per alcuni presidenti, forse un'occasione di fare impresa e di ottenere guadagni che poi non sono arrivati per altri, e infatti alcune società sono fallite, ricordiamolo, perché non è vero che le squadre italiane di calcio in difficoltà non sono fallite. Come no? È fallito il Napoli, è fallita la Fiorentina, è fallito il Torino. La Lazio doveva fallire, invece poi, certo, è stata salvata da un compromesso tributario che, per carità, ha garantito comunque, sì, il pagamento, sia pure dilazionato, mm-hmm, di quel debito al fisco. Il Bologna, vediamo. E quindi come si vede, non è affatto vero che non ci sono ripercussioni a gestioni fallimentari. Certo. Un linguaggio, è giusto che un primario usi nei confronti dei pazienti un linguaggio rispettoso. Tu sei riuscito a dire una frase che mi sono annotata, perché era di una sottigliezza assoluta. Il dividendo del calcio in Italia non è mai stato puramente economico, è una frase secondo me di quelle da ricordare. Beh, questi giorni di fine maggio sono in genere, parlando di Amarcord affidati a Nicola Filippone, sono echi di finali di grandi coppe, insomma, in particolare di Coppa Campioni. Oggi non fa eccezione, 26 maggio credo del 93, Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 maggio 1993. A Monaco di Baviera, il Marsiglia conquista la Coppa dei Campioni, appena rinominata Champions League, battendo il Milan di Capello. Decide un colpo di testa del difensore Basile Boly su angolo di Abedi Pelé. La finale del 93 verrà ricordata per essere stata l'ultima partita del 28enne Marco Van Basten, schierato nonostante una caviglia malconcia che lo condizionava da tempo. I vari disperati tentativi di recupero non andranno a buon fine e nell'agosto del 1995 Van Basten annuncerà ufficialmente il ritiro. Nonostante una serie impressionante di infortuni e il precoce abbandono, l'attaccante olandese, uno dei centravanti più completi di sempre, vanta una bacheca incredibilmente affollata di premi. 3 campionati olandesi, 3 coppe d'Olanda e una coppa delle coppe con l'Ajax, 3 scudetti, 2 supercoppe italiane, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali e 2 supercoppe europee con il Milan, l'europeo dell'88 con l'Olanda, 3 edizioni del pallone d'oro e 6 titoli di capocannoniere. Quella fu davvero una data doppiamente triste per il Milan, non soltanto per la sconfitta in finale, ma per l'addio definitivo, che subito si capì che sarebbe stato un addio definitivo, o quasi certamente, che era quello di un grande come Marco Van Basten. Ascoltatori scafati non mancano, perché Nicola Verona, per esempio, ci spiega per iscritto come si fa il nero nelle società più piccole attraverso le sponsorizzazioni, per esempio. Non dettaglio, perché non si sa mai che ci siano orecchie più pudibonde in giro. Gaetano La Lucca ricorda che in caso Lentini, in una squadra di primissimo livello, lui poi la mette anche sul piano dello statista, ma insomma non siamo in par condicio, non è il momento. E quindi dice che anche, insomma, ricava che anche da quel lontano episodio, mi pare nel 92 o 93, si ricava come gli illeciti fiscali avvengano, ci fu regolare denuncia, regolare processo anche per quella vicenda. Però Marco, adesso lasciamo queste tristezze, queste miserie, perché il tempo passa e tu ci hai promesso anche qualche traccia di cura, cioè la diagnosi l'abbiamo fatta, la prognosi, adesso la terapia. Beh, c'è qualche aspetto positivo se si va a scavare fra i numeri e valutando nell'insieme cosa vuol dire, cosa dovrebbe voler dire fare impresa nel calcio. Ora si parla tanto di stadi di proprietà, sicuramente quello è un rimedio, anche se ovviamente per fare gli stadi servono i soldi, e forse né come dire, gli enti pubblici né le squadre hanno le risorse necessarie, sì, per investire. Forse proprio solo la Juve, insomma, poteva farlo, però è chiaro che quello deve essere, è necessario e fondamentale che si arrivi a quello. Però ci sono cose che le squadre possono fare molto, diciamo, con molti meno oneri. Allora, tra questi dati ce n'è uno, finanziario, mi perdonerai, si chiama EBITDA, che non è un giocatore, non è una mezzala. No, perché metti che vada via Amsic, poteva essere un bel nome questo. Beh, certi colpi bassi, però io eviterei di farli in questo momento, che di eccessiva sensibilità sui temi. Mi perdoni, dottore. Ecco, allora torniamo all'EBITDA, che è un coefficiente, insomma, finanziario, che punta su quello che è il risultato netto della gestione, quindi a netto degli ammortamenti, di oneri, sì, finanziari, cioè guarda quanto poi quel fare impresa può garantire. E sorprendentemente esce un dato positivo, per cui ci sono quasi 260 milioni di attivo nella Serie A. Questo che vuol dire che con una gestione più attenta, con acquisti meno onerosi, con ingaggi magari spalmati e meno ampi di quelli che sono stati regalati ai calciatori di punta, si può creare un circolo virtuoso per portare il bilancio in zona positiva. E questo deve essere fatto ovviamente aumentando i ricavi, ma aumentare i ricavi anche del 5-10% è assolutamente possibile, per esempio sul piano del merchandising. Abbiamo detto quanto vale in Italia. In Italia il merchandising vale ora soltanto 77 milioni, rispetto ai 190 della Liga Spagnola, ai 168 della Premier League, ai 130 della Bundesliga e ai 67 della Liga Francese. C'è stato una crescita del 20% nell'ultimo biennio, ma è chiaro che per esempio su quel fronte si può fare molto, sfruttando per esempio i canali di internet, dei network, dei social network, che sono utilizzatissimi all'estero. In particolare però quello che ritengo fondamentale è la cura dei vivai. Dicevo l'altro giorno, nello scorso appuntamento, che l'Italia, il calcio italiano, deve diventare un calcio esportatore di talenti e non più un calcio importatore. Curare i vivai è decisivo. È fondamentale. In sostanza si è stato calcolato che nel 2010 soltanto 70 milioni è stato l'investimento dei club nei vivai, appena il 5-6,6% del fatturato. 5-6%. È un dato molto molto basso se pensiamo all'esempio della cantera del Barcellona, che magari da sola non copre questo intero costo, ma la metà sì. Molto vicino. E considera, Gigi, che questo dato potrebbe essere, cioè queste spese per i vivai, i costi di vivai, potrebbero essere diciamo scalati dai conti del fair play finanziario, quindi è un investimento virtuoso, ma è difficile anche individuarli nei bilanci i costi dei vivai, perché non vengono scritti, insomma, in maniera chiara. Quindi è un invito anche alla società nell'individuare meglio questi costi, cercando di ottenere poi uno sconto dalla UEFA, e curare di più i vivai. Questo significa avere propri giocatori, poterli magari vendere, ma avere anche questa convenienza. Queste sono le cure, insomma. Io mi fermerei qui. Fermiamoci qui, anche perché deve partire la sigletta del Giro d'Italia. Voci dal Giro. Si continua a parlare della volataccia di ieri tra vinta da Ulissi e con la squalifica di Visconti. Sentiamo questi due galli nel pollaio di ieri pomeriggio. Ma io ero davanti, mi è sembrato di aver fatto la mia traiettoria, poi ho sentito una mano e mi ha spostato. Ma è qualcosa di incredibile, a volte siamo noi stessi a voler rischiare la vita, a voler farci male. Io ho urlato 10 volte a Ulissi perché veniva a doppia velocità, lui mi ha guardato più volte, mi ha buttato sulle transenne, è stato, io non, se non alzavo la mano da manubrio non riuscivo a stare in piedi. Penso che sia qualcosa da non fare, soprattutto da un giovane che tra l'altro è già tutto il giorno, che si atteggia un po' troppo nel gruppetto, si comporta male ed è anche molto maleducato. Voci dal Giro. Vabbè, è ora che finisca il Giro, comunque c'è qualche tossina di troppo. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Credo che tornerà il nostro Capezzale in autunno ormai a questo punto, perché anche se sì, con qualche piccola coda sui diritti televisivi, ma insomma tutto il calcio va in vacanza, anche quello economico. Questo argomento l'abbiamo ampiamente esaurito. Direi di sì, grazie davvero, a te grazie in redazione, grazie in regia, sono un po' in ritardo, oggi sintetizzo al massimo i saluti, buon pomeriggio.